invece. Luce. praticamente i canarini covano in primavera, no? Adesso è una cosa fuori dal normale. Quindi cosa succede? Una volta che si abbassa la luce alle 5, io le devo accendere la luce di casa, capito? Per continuare sino alle 10:30 deve continuare la luce. E ne sono andati a 4. Oh, ma erano già in cova però. Ce li ho tutti in cova, tutte le coppie ce li ho in cova io. Questo qui è una cosa artificiale che sto facendo io praticamente. Siccome mi hanno fatto, non gli ho tolto i nidi per farli covare in primavera e me l'hanno fatta, mi hanno fatto l'uovo dentro il contenitore dove metto la verdura per mangiarsela. E l'hanno fatto lì l'uovo, poi deve essere come l'hanno fatto. È caduto male e si è spaccato ed era attaccato, incollato a questo, come sono andato a prenderlo si è aperto. E allora gli ho messi i nidi, capito? Scappare oggi, va bene, va bene. Tanto sempre bene io, sì. Cava, cava. Io ho consegnato quella roba là. Ci sono un po' di difficoltà, sì. Hai consegnato quella roba là? Via. L'apparecchio base. Ci sono un po' di difficoltà, nel senso che c'è più danno di quello che avevi previsto. Nel senso che in FM banda laterale modula tranquillamente, è solo in AM che non modula. Deve esserci qualche cosa perché non arriva la corrente giusta. Non ce n'è problema. Chi ce l'ha già sa quello che deve fare, già lo trova il problema, non ti preoccupare. E qualche tensione che non arriva alla parte del modulatore. Può succedere sicuramente qualche componente elettronico, comunque già lo trova lui, basta che gli attacchi le colleghi, gli strumenti giusti, già va bene. Mi ha detto che non è facile provarlo, che non è facile, che c'è tutta la sera, che sta provando e riprovando. Aspetta, se ha difficoltà lui, allora vuol dire che il problema non è un problemino. No, non mi è mai capitato a me così. A me una volta mi si titta però da tutte le parti, AM, FM, SSB. Questo coso non l'avevo mai sentito. E vabbè, ci vuole molta pazienza a fare quel lavoro, ma tantissima pazienza. A parte ci vuole la strumentazione e sapere dove metterci le mani, ma ci vuole molta pazienza. E ha seguito tutte le piste dove c'è il modulatore e dice che sembra tutto a posto. Sì, chi è? Ho osservato la patata, buonasera, ben ascoltato. Tanti auguri, buon inizio d'anno anche a te famiglia. Era tanto che non ti sentivo, Sì, diciamo tutto bene, dai. Un po' di acciacchi, un po' di cosettine, ma per il resto si tira avanti, Monserrato, va bene. Sono in compagnia di Gianni Doppio Rum, non so se lo senti. Gianni, l'hai sentito Monserrato la patata? Non sento più pio. Attenzione Monserrato, mi ascolti? Buonasera anche a te, dai. Ti ascolto ma molto basso, livello QRM, dai. Mi hai sentito? Buon anno, visto che non ci siamo sentiti prima. KK, riprendi Claudio. Aspetta che sta parlando gatto, cosa KK? Aspetta Monserrato, forse Gianni non ti ha sentito e ti ha parlato sopra, cosa hai detto? Cosa hai detto Monserrato? Ho capito, vabbè, magari come l'hai montata un po' c'è qualcosa che non va. Qua sei Santiago quasi 9, quasi Santiago 9, 8 abbondante, quindi non penso che sia un problema d'antenna. Arrivi molto bene qua. E vabbè, domani si riprende un po' tutti. Domani si inizia la settimana lavorativa, penso che ci siamo un po' tutti riposati, no? Con tutte queste feste, perciò che problema c'è? Ti ascolta basso Gianni Monserrato, qua arriva Santiago 9, vabbè. La mia zona è quella. Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Vabbè, ciao Gianni. Oi, ciao Luca, A parte che da soli, cavolo, un po' un casino, perché io non sto tanto bene. Va bene, organizzati, vengo a vedere una mano io già. Organizzatevi un giorno che sono, che Claudio è libero, che sono libero, ti vedo una mano io, una mattina però, e non la sera, che la sera è un casino, la mattina è molto meglio, se Claudio ha un giorno libero, la domenica, se il tempo è bello, presto, si fa. Dobbiamo piazzarla mercoledì, non domenica, questo mercoledì. Di mattina? Eia. Ah, mercoledì mattina, non dovrei fare niente. Dai, nel caso mi faccio un salto, ti chiamo prima, ti avviso. Va bene, ok. Ci fa piacere perché io non sono molto in forma, stamattina sono anche strampato con il cane. Mi ha tirato di colpo, boom, ho preso un gaggio di interno. Sì, già gli ho dato io una mano a Claudio, dai, se ripeto, se non ho niente da fare già. Per il momento no, devo fare dei lavori, devo sistemare dei computer, infatti devo anche consegnare. Non ho altro da fare per il momento, dai. Sicuramente verrò anche io. Ok, avanti Claudio. No, non possiamo aspettare molto Lu, perché se arriva il tempo brutto ci rimane in groppa questa antenna, capito? Ci ho fatto il culo per prepararla, per rifarla, tutta rifatta a nuovo, e ce l'ho qua in stanza, ho astratto anche i radiali, la devo piazzare più in fretta possibile, senza toccare altro, si mette l'antenna, si ritira su. Basta, però l'antenna bisogna montarla, perché sennò è un casino, poi arriva il tempo brutto e non si può fare, capito? Quell'antenna, un altro colpo di vento, un altro casino che succede, che è in agguato, il gaggio accaba a terra, perde tutto, è un casino, c'è quella molla che proprio recuperata in estremis, perché c'ha tutto il connettore marcio e tutta, capito, è tutta da rifare. Perciò si piazza questa, ma più in fretta possibile. Mercoledì mattina io, dopo che porto il cane, alle 10 sono da Gianni. Se ti avvicini mi fai una cortesia, perché devo abbassare il piantone, sfilare quella, montare questa a terra intanto e poi passarmela. Non è un grande lavoro, però poi devo fare tutti gli accorgimenti, grassi, grassini, cosettine, regolare la spirale. A proposito, io l'ho già regolata Gianni a 7, ok? Mi sembra che tu, per non stare a sale e scendi, il rosma te lo porto io così tu non lo stacchi, per non stare a sale e scendi, gli spezzoni, il rosma te lo porto io, mi serve quel tuo portatile, l'attariamo su direttamente. Quale portatile? Tu non c'hai un portatile, quel kit cos'è, non c'hai un portatile 40 canali tu? Già ce l'ho, ma non si può staccare l'antenna lì. Ah, non si può attaccare il connettore dell'antenna? No, facciamo come abbiamo fatto l'altro giorno, non ti preoccupare. Oh, se volete c'ho anche PMR portatili, che imbattono la grande, se ci servono magari. Faccelo anche io. No, non mi servono il PMR, è per non stare a sale e scendi, capito? È per non stare a sale e scendi, perché devo essere preciso, quindi devi fare già, senza, devi staccare tutto, mac e bocce, trick e bocce, perché io la sera la devo mettere perfetta. Ma scusa, ma in questa antenna dall'altra cosa devi recuperare? Lo stilo centrale. Ah? Solo lo stilo centrale, poi il resto deve cambiare, il piantone con la molla lo deve cambiare. Riusciamo a sfilare il centrale? Punto di domanda. Vulcanizzato era quel centrale? Sì, tutto vulcanizzato, Luca, già lo abbiamo fatto insieme, sì, già te lo ricordi, era vulcanizzato anche il PL, tutto vulcanizzato, e così lo voglio rifare, perché a me mi è andato bene così e non lo voglio cambiare, faccio tutto così di nuovo. Vabbè, già non è che mi ricordo, da qualche anno è passato. La mia me lo ricordo che l'aveva fatta Claudio, la mia sicuramente se tu vai a aprirla è nuova dove ci sono le fascette, perché ha messo quel vulcanizzante che usano per mettere nei tubi, è quello resistente all'acqua, alle temperie, capito? Quella tua? Ma la mia non lo so, allora io ho portato il mio baracchino e i segnali sono ottimi, perciò non penso che sia un problema di antenna, assolutamente. Smitter dell'altro baracchino, mi hanno mandato lo schemino, il VR1 è da toccare, infatti adesso in base a quanti watt, cioè mi serve un cosa, un wattmetro, lo smetto watt, adesso vediamo, là, mi faccio un giretto su eBay, vediamo un po' se riesco a trovarlo a due soldi, così in base ai watt che do voglio sapere quanto ricevo, e in base ai watt che dà tipo tu, non so quanti watt riesci, ci regoliamo il baracchino. Io ce l'ho lui, te l'ho detto, ne ho uno buono, però non è il mio, di Gianfranco. Te lo posso dare per misurare e poi me lo ritorni. Vedi, ti fai il lavoro che devi fare e poi me lo restituisci, non è un problema. Capito? Va bene. No, questa è tarata 7 la spirale, già stretta, tutto. Magari c'è da fare qualche ritocchino, ma non penso. Però vediamo. Tu scendi giù, una volta che l'antenna è montata, prima di tirarla su, si controllano le stazionarie. Se le stazionarie sono a posto, si blocca, ok? Io dovrei avere il depliante della mantova per vedere a quanto va tarata. Dovrei avere ancora il depliante della mantova 5 quando l'ho piazzata, perché l'avevo conservato. Devo guardare, ma a me mi pare che era a 9, non a 7 che voleva tarata. Gianni, ma la chiave l'avevi sistemato? A 7 già, non a 9. A 7, la vuoi? Quale? Quale? Ecco, non usciva di radio. No, lo sta controllando, sta controllando, ma esce di radio sia in banda laterale che ne FM. Meno M non esce di radio. Ok, ho capito. Vabbè, dai, comunque già nel caso già vi faccio sapere se sono... Dovrei essere libero, sicuro, là. Poi, sai com'è? Per me non c'è problema. Dai, mi assento, ci sentiamo dopo. Dai, riprendi tu. C'è anche Monserrato, vediamo un po' se c'è ancora. Monserrato, ci sei? Perché non ti sentono loro, eh? Ma non ti sentono loro, capito? Non ti sentono. Va bene, d'accordo, dai, Luca e Gianni vi saluta Monserrato, ma non riesce ad ascoltarsi. Ehi, cava cava. Ciao Monserrato, se mi ascolti. Buona serata. Ecco, ho registrato il break. Ti ha salutato Gianni, dai Monserrato. Ok, avanti break. Sì, ciao Claudio, ciao Gianni. Saluto anche questo Monserrato. Corra, non stai uscendo di radio? Non sto uscendo di radio? Ehi, ogni tanto manchi di radio. Se mi ascolti metti lo spray per contatti nel PTT, Massimiliano. Lo devo aprire e mettere, dai, ce l'ho giù. Basta un po' di polvere, ti dà quel problema, lo faceva anche a me con il microfono da tavolo. Cava cava, avanti qua. Sì, va bene, dai. No, ogni tanto manchi proprio, manca la modulazione, Massimiliano. Non è niente di particolare. Evidentemente è proprio un falso contatto, capito? Sì, no, ma me ne accorgo qua dall'orometro, capito, quando non sale. Sicuramente qualche falso contatto, qualcosa, non so. Va bene. Vabbè, Lu, fai sapere a Gianni. Una mano mi serve, ma proprio leggera giù, o giù o su, insomma, comunque. Perché lui ha problemi a rimanere molto in piedi, poi lì c'è la ghiaia, quindi magari dà fastidio, capite? A lui ci interessa che poi lui scenda giù e controlli a stazionali, no? Non è un problema quello. Avanti già. Ehi, mi prenderò un occhio, vediamo un po' se riesco un po' a alleviare i dolori, però che oggi ero proprio... già mi ha visto Fabrizio com'è, non riesce manco a fare dalla macchina. E comunque niente, speriamo che entri, perché senta vuol dire che l'ho messa a posto. E vabbè, se ci vorrà il tempo suo per fare cose, no? Tu sei uno di questi boghi che ha sempre fretta a fare le cose. Stai sereno, calmo. Quando le cose si fanno con calma si fanno bene. Quando si fanno con così in fretta, perché si fanno male. Con calma. Piano piano si fa tutto. E lui che lo sta facendo mica io. No, lo stava già controllando, capito? Sì, ho capito, ma lascia il fatto, dimmi ti gheggiati che l'hai portata lì e che ce l'ha lui. Non ce l'hai, basta, quando ti chiama che è pronta, sarà pronta, no? Le cose bisogna farle con calma, tranquillità, no. non velocemente. Anche questo lavoro dello scambio, del piantone, di tutto. Lo va a fare con calma, non ci vuole fretta e soprattutto bisogna stare attenti a non farsi male. Le cose vanno fatte piano piano, tranquilli e sereni, senza problemi. E beh, Massimiliano, domani è lavoro? Sì, claro, è la ora, domani io rientro. È la ora, non c'è più cane, stai in casa. Capite cosa vuol dire staremo per te. Io ho sofferto per un po', poi ho detto basta, no, mi sto rincoglionendo. Infatti tutti i dolori che mi sono venuti, anch'io già ne ho preso un occhio oggi. Anch'io ho preso un occhio, sono andato da Andrea stamattina a trovarlo, gli ho portato il 60 per farmi le connessioni. Adesso me lo dia domani o dopodomani, adesso vediamo, perché domani mattina ce l'avevo da fare. E quindi niente, sono rimasto un po' lì, però c'avevo un mal di schiena, sono andato in moto, c'avevo un mal di schiena allucinante. Infatti la moglie mi ha dato un occhio, me lo sono preso dopo pranzo, mi sono sdraiato un pochino, mi ha alleviato il dolore alla schiena, ma c'è qualcosa che non va, non mi fa più effetto neanche le l'antinfiammatorio, niente. Sarà oxartrosi come ce l'ho io. Oxartrosi, mia mamma mi piglia pure di rimane, infatti lo gonfio, come tiravo i carrelli. E io come tiravo le pompe. Io come tiravo le catene delle pompe, mi fa un bel male, e meno male che non ti ho dato appuntamento oggi, perché altrimenti non ne avremmo potuto fare, capito? Proprio male, lo so, poi noi facciamo tante cose quando siamo giovani, quando abbiamo voglia di fare, e poi ci sono i risultati, capito? E poi ci sono i risultati dopo. Vabbè. Avanti, Luca, riprendi. Io vi ricordo un autista che mi ha detto non prendere i colli a 3-3, prendi da 1-1, se no poi il fisico ti domanda il conto. E mica mi aveva ragione. Per forza te lo manda il conto, Gianni. Quando sei giovane io viaggiavo in moto, anche quando stava piovendo, non avevo problemi, non me ne fottia nuda, capito? E poi ti arriva il conto, perché l'artrosi, tutte le cose arrivano dopo, purtroppo è così, vabbè. Avanti Massimiliano, dove sei domani, che zona sei, sempre lì? No, non sta uscendo, no Massimiliano, seduto a frusci. Sì, a fischi la voce bassa. Io non ho capito niente. Vabbè. KK. Comunque. E gli hai detto che stiamo facendo l'antenna nuova? Che ho fatto l'antenna nuova, gli hai detto a Fabrizio? No, non gli ho detto nulla perché non ci siamo fermati volte, ci siamo trovati un bel tardi. E lui stava andando a prendere i figli da Piazza d'Italia, che c'era Befana, e ci siamo trovati sotto casa sua, ma era l'una e mezza quando gliel'ho portato, figurati. No, io. E vedi, quel piantone, lui che c'ha al tornio, fa un capolavoro. Perché lui, siccome salda, alluminio, e fa due cordoncini, poi li passa al tornio, due boccoletti all'interno, oppure vede lui cosa metterci e esce nuovo col piantone, capite? Si smonta, chiaramente bisogna smontarlo tutto, come ho fatto io a questo, e te lo tieni di scorta. Però già si può fare, si può mettere a posto quello lì, capito? E tenere sempre di scorta, bisogna sempre averlo uno di questi cazzo di piantoni di Mantova di scorta, perché alla fine poi è un casino, mangia, a seconda dove è montata la salsedine si rampi tutto, ed è un peccato perché sono antenne eccezionali qua. Claudio, ho visto su internet, su eBay, c'era uno che stava prendendo una Mantova 5 revisionata, indovina quanto? E quanto? Ci vendiamo questa e ce la compriamo nuova, quanto? 150 euro, revisionata, seconda mano. È allucinante. Anche questo, il piattone faceva schifo, ma è tutto revisionato, che sono cosa, cosa, ma te balli di quindi la gente pur di far soldi, cazzo. Pur di far soldi, per carità. Sì, ce ne sono un bel che vendono queste cose. Comunque, vabbè, va bene quella che ho trovato io, il sito, 150 euro, però nuova. Nuova. E 145 la manto va uno, ci sono tutti e due. No, non ne ha bisogno, sicuramente non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno. Questa è revisionata, ma è nuova, in buonissime condizioni, meglio di quella lì. Quindi te la sfrutti poi quando... Quando sarà, però te la sfrutti almeno, capito? Quando sarà, ti leggo un pareggio nuovo e basta. Però questa è buona. Questa è buona, è a posto, capito? È a posto. Poi quando la montiamo la vedi, è buona. Era praticamente abbandonata, non in uso. Non in uso, va bene, va bene. Massimiliano, cosa si provende a se boccia B? Io sento un rumore, tum, tum, ma cos'è? Quando schiaccio il PTT? Prova! Eia! Questo è un altro microfono, questo è un altro microfono, non è l'SM20, questo è l'MD1B8. MD1B8 da tavolo della Yeiju. Ti dà lo stacco. Stacco. Ti mando già leggero, non siete nemmeno qua. Io non ce l'ho fatto caso, se non me lo dici tu. Eia, questo è il lock. MD1B8. E già ne ha picchiole. Non è come 60, ma comunque già va bene lo stesso. Io c'ho il canarino, se tu c'hai il picchio. Io c'ho il picchio e tu c'hai il canarino. In più c'è il merlo, così è. C'è anche il merlo, merlo maschio. Parviero maschio, il merlo maschio, il canarino. Cazzo, vedo canare i bisogni. Che vabbè. Vedi, adesso io come modulo con questo appareggio? Mi dà dei picchi positivi. E sale a 1 e 3, 1 e 4. Però, bisogna considerare anche che sono 20. Normale già, anch'io c'è modulo, non rimangono fissi, soprattutto con questa radio perché c'ha dei picchi di modulazione quasi a 100 watt, capito? E quindi leggermente si sposta, ma è sul modulato, sul parlato, ma portante muta è 1 e 1. Chi è che vuole entrare avanti? Massimiliano, tu sì. Si sente un bel male. Io intendo quasi splatter, ma non deve essere sul 10. Massimiliano. Sta dicendo prova. Sì, vabbè, ma se non andava. Non funziona Gusta Radios. Non lo so, cosa sta provando. Vabbè. Se vuole entrare già attacca l'altra, dai. E Luca dove è andato? Non lo so, Luca, dove si è andato? Si è andato. Sarà andato dalla ragazza, Vabbè. E io domattina alle 6 dovevo andare a prendere il posto a mia moglie lì alle 6, invece l'hanno spostata al 23 di febbraio, al 21 di febbraio. Ah. Ce l'ha vista per la commissione medica. Ah, quindi domani non ci devi andare? No, non devo andare lì alle 6, però alle 10 e un quarto devo accompagnarla a fare un'altra visita perché le serve un documento da portare poi il 23, capito? Se mi dovessi liberare presto, ma non credo, mi faccia. No, lasciamo stare a mercoledì già. A meno che non vuoi fare il pomeriggio, non so. Non lo so. Ma per me è meglio farla mercoledì di mattina, si inizia, si finisce. No, mercoledì che viene anche Luca, di pomeriggio Luca non c'è, non ce la fa, va da Marina, quindi non c'è. Facciamo mercoledì direttamente, va. Ciao, ma che ava. Ola. Attenzione, binario 10, cambi. Uscendo sto. Sì, ma non bene, prova. Però radio quella, stavo provando qualcosa, vuoi supertrap? Ma ci danno ma anche questa la radio ogni tanto manca. Cos'è questo? Il magno? Eia, eia, ma il microfono qua. Ma ce l'hai attaccato dall'altra parte o davanti? Al lato, questo attacca al lato. L'altra volta al lato non lo stava facendo, adesso lo sta facendo anche al lato, allora il microfono. Ebbene, non ne hai altri di microfono? Sì, che ce li ho. Evidentemente qualche cosetta. Vabbè, comunque esce meglio dell'altra che andava tutta a tratti. Ma sicuramente basta mettere un po' di CRC o di per contatti. Il CRC è meglio, perché l'altra volta ho messo lo spray e non funzionava. Ho messo il CRC subito mi ha aggavato il problema. Questa è brutta la modulazione? Eia, non mi piace, nasina. Non lo so, Claudio, tu come la senti? Io con questa dovrei attaccare l'altra. Io con questa c'ho il filtro a 3000, mi pare, e lo sento abbastanza largo, quindi abbastanza buona come modulazione. Però questa c'è filtri tutti digitali, magari corregge un po'. Già, dovrei attaccare il 440 per vedere. Sì, vabbè, comunque già va meglio di prima, ma si vede. La radio di prima era più presente, eccetera. Questa rimane citofonica come radio, come se stessi parlando col megafono, c'è presente. Sono la stessa radio di prima, c'è la Ginezenne, questo è il magno. E buh, ma ne cambiate il microfono. No, sempre lo stesso microfono, adesso mi ascolto in cuffia. E prova a allontanarti la bocca, a vedere. Io con questa non me ne accorgo, perché questa è una maledizione. Corregge tantissimo, tantissimo, magari con quella analogica no, ma questa corregge tantissimo, anche perché c'ho i filtri tutti in automatico, quindi il mio computerino magari corregge, tu la senti più diretta, boh, non lo so. E adesso la dovrei far girare un'altra di radio, mi sa che la piazza. E tenendo una intanto, con una io c'ho tutto spento, c'ho solo questa accesa, intanto è inutile tenerne 10.000 accese. Hola, hola. 10.000 accese per niente, basta una e ce la bile luci. Via. No, ma io quella che voglio attaccare è perché ce l'ho un po' di tempo ferma sul mobile, capito? Ah, per quello, ho capito, capito. Vabbè, Massimiliano, ascoltato, dice, io ti sto ascoltando bene, non ne ho problemi. Massimiliano. Ora. Prova. Tra gubba però Sì, siamo il stesso radio però stesso microfono, stesso radio, cambio. Adesso hai inserito l'eco, però poco fa non ce l'avevi. Cosa? Ho detto continuate a parlare, vado a fare l'altra radio a provare. Ho detto Massimiliano, hai inserito l'eco, poco fa non ce l'avevi, ti ha giù detto qui c'è un'altra gubba. Sì, ehi, ho solo inserito l'eco, dai. E beh, c'è un'altra gubba lì. Adesso l'ho tolto, vedi? Allora, adesso l'ho tolto, togliamo anche il bipisi, adesso è normale, qua. Ma sai che mi piace di più con l'eco, tutta inserito, che è normale quella radio? Eppure, boh, funzionava sempre bene. Guarda, così l'ho acceso e ce n'è un pelino, dai. È molto più robusta, molto più chiara la modulazione. Quando chiudi tutto, boh, non è più come prima. Ho il microfono, non lo so, Massimiliano. Aspetta, voglio fare una prova, anche secondo me il microfono, però aspetta. È perché era una canonata anche quando la usavi chiusa. Invece adesso chiusa, gira gira, ragione Gianni, ho tolto il filtro a 3000. Modulazione un po' così, non è bella bella. Mentre quando apri è bellissima. Ora 1, 2, 3, prova, dai. Allora, adesso questo, il microfono l'ho messo, allora, guarda questa qua, aspetta. Così è chiuso tutto, togliamo il bip, così è tutta chiusa, là, con un altro microfono dall'altra parte. Una bomba, così era sempre. Allora quel microfono non serve più. Una canonata, sembra che stai usando un microfono preamplificato, bellissima modulazione. Quando apre è ancora più bella, invece l'altro è completamente una cosa impressionante, lo microfono. Positivo, dai, quindi questo qua e l'altro, infatti mi manca. Questo manca anche là. Questo manca? Sì, a volte manca la modulazione anche. Questo è bello per il microfono. Ma è più forte. forte, più chiara, boh. E controlla i Massimiliano, cazzo, vabbè che tempo anche tu di stare a cincischiare con le radio non ne hai, però va bene. Quindi dici che questo qua è più bello, vedi che manca che... Però manca, manca, l'altro è boh, un po' bruttina, però quando apri, che attacchi l'ecco, è un'altra guba. Ma ti dico, dai, questo è l'altro microfono, dai. No, questo è lo stesso microfono, è aperto. No, questo da un'altra parte, claro, questo è un CTE. Questa è bella modulazione, Massimiliano. Questa è bella, bella forte, c'è l'ecco bello potente. Diciamo se la pigliate a Sarraggio. Così dico, dai, questo è l'altro microfonino, dai. Fammi sentire questo. Allora, guarda, dai, guarda questo. Questo è quello originale che uso sempre. 1, 2, 3, prova. Non è che non c'è molta differenza, c'è una torsione così chiamata di modulazione, praticamente un po' più impastata rimane. Quale? Questo? No, questa è bella. E questo è quello suo originale, dai. Questa è bella, Massimiliano, non è brutta. E questo qua invece è dall'altra parte, questo è un CTE. Questa rimane un pochino più grossa. Più tonalità bassa, quella là è un po' più tonalità alta, mi piace più il primo passaggio. Così dico, dai, allora se mi dai 2 minuti, dai, lo apro e provo a vedere un po' cosa gli è successo. E fai, già sono qua, aspetto a Gianni. Voglio vedere, non si sa mai che ci voglia davvero una spruzzatina di cimbrana. Di solito lo fa, ma io non agio più, io le ho tutte pulite. Anche il 440 l'ho tutto, infatti non lo sto usando perché lo sto lasciando asciugare bene, l'ho tutto pulito con la trilina, è scoperchiato, tutta la parte del VCO è caduta piena di viewer. Io abbandonate il radio, Zocas. Roba vecchia, roba vecchia. Aspettami 2 minuti e vado a prendere coso giù. Eia. Prova. Hello, capo. Ti era attrezzato lo spray? Yes. Fallo andare, ficcia, ti, prova. Sente una cosa? No, adesso non tasca, adesso va bene. Ciao qua. Ogni tanto lo fa, si secca per essere e quindi va a fare quel rumoraccio. Cazzo, mi sembrava Massimiliano, tipo, siccome anche lui sta spruzzando lo spray nel microfono, scusami, mi sembrava Massimiliano che sta usando la radio con l'ecco, lo stesso, cesso, gatto, rincoglionito gioco. Ciao, ti, buonasera. No, ma qui è capitato anche a Fagiolo, perché anch'io ho spruzzato lo spray nel mic, perché faceva quel tono tipo... Capito? No, lui mancava di modulazione proprio, capito? Mancava di modulazione, quindi ho detto, ah, però Massimiliano a sfruttare un po' di spray, cazzo, non riesco a capirti. E mi sembrava lui che mi stava chiedendo il controllo, invece sei entrato tu. Va bene. La vecchiaia carrogna. Hanno detto, il culo che non è viccia. Cazzo, poi non sto usando il 440, sto usando l'altra, e cambia un pochino le modulazioni, sfasa, no? Sfasa un pochino, ma mi sembravi proprio Massimiliano, se non me lo dicevi, mi sembrava lui. E questa come va? Cioè, va bene sempre, sì. Come fa quando schiaccio? No, va bene, sì. Va benissimo alla grande. C'è anche Gianni che sta cambiando radio. Gianni! Oh, non ho sentito, aspetta qua, che devo accendere il fuoco un attimino. Ancora devi accendere il fuoco, e basta! Per scaldare! Sì, per scaldare, per mettere le bracciole, la mazza! No, per carità, lo senti? Aspetta, sì, l'ho fatto un rumorino, vero? Sì, appena, ma neanche... Già, no, non dà fastidio. Io sono qua, là, intanto sto aspettando Massimiliano, accendi il fuoco, accendi. Ehi, andando. Claudio, mi ascolti? Cambio. Ora prova che c'è. Sì, ti ascolto, ma non sei alto di modulazione, sei un po' bassino. Hola, Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, la cipolla, cambio. Tu, ti non stai andando bene. Già, e cosa hai attaccato però? E te non ne ha, ecco. Cosa ti? Che già non ne sto usando, ecco, adesso. In positivo sono qua, guarda. Sì, sto usando il digitale, fermo sul 920, non si muove, non lampeggia niente. Hola, questo microfono vuol te, se vuol te no Claudio, deve essere qualche cosa. No, stai uscendo, poi cupa, non è bella. Ho detto, ma che radio stai usando adesso? Ciao, che radio stai usando? Sì, guarda adesso, Claudio, vedi un pochino, aspetta che forse passo un po'. Hola. Abbasso anche l'ecco, dai. Hola. Dammi la conferma di quanto è sul digitale. Allora sì, 9,20 e poi si accende un altro LED, quindi potrebbe essere 25, boh. Non è che non arriva al 30 comunque. No, aspetta. E adesso è aumentato, guarda. Sì, adesso si esce la punta del 30. Arrivo. Adesso, ora. Poi mi dice anche la radio, eh? No, se no ti satura la radio. Lascialo come la prima, il passaggio precedente. Guarda, così, poi faccio il preleggiare, dai. No, ancora devi abbassare, un pelino. Eccolo qua, così, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Esatto, non ha cambiato il segnale, la modulazione ha migliorato, lascialo così. Massimiliano. Ehi, guarda a vedere, ciao Dino. Guarda a vedere adesso il microfono, cambio. Adesso va bene anche il tuo. Ciao Massimiliano. Ehi, ciao Dino, dai. Se abbassi un altro pelo qua sei tutto saturo. No, abbasso tutto, guarda. Metto così. Ehi, va bene. Come l'ascolti questa radio, Dino? Il microfono, come, è buono? È la tua. Va bene. Gianni poco fa mi ha detto che era citofonico. Era un po' sporchino dentro. Infatti adesso ha migliorato molto, Massimiliano. Ha migliorato molto adesso. Oh, scusate, che devo uscire, dai, devo accompagnare il ragazzo. Ci sentiamo più tardi. Ciao, riprendi, Massimiliano. Ehi, a positivo. Ciao, Dino, dai, ti faccio salutare dagli altri. Avanti, ciao, Otti, ci aggiorniamo dopo se coincide. Vai, già. Ehi, vabbè, Gianni è sempre due passi indietro. Ciao. È Matracchendi in Kiwi, è Matracchendi. Ah, c'è una di radio, quella che stai usando adesso non mi piace già, è cupa, boh, c'è una modulazione un po' strana, non lo so, ho provato a allargare, a stringere qua con questa radio, ma non cambia niente, invece Massimiliano è perfetto. Ci vuole il serpente. Cos'è questo, serpente? No, il serpente è parcheggiato. Parcheggiato dentro la sua custodietta. Gappa, va bene. No, se Gianni sta usando il Cobra non mi piace come modulazione. Non lo so, è cupa, bruttina. Il segnale è buono. Il segnale è molto buono, è alto. Però la radio non mi piace. Claudio, non è il Cobra, te l'ho detto, è il Midland Alan 48 Plus col microfono normale. Questo, se tu lo rimetti in MB più 5 va un bel bene, si sente molto bene. Io infatti l'Alan 48 lo uso con l'MB più 5. Ed esce non a livello del K, ma quasi, però è sempre un baracchino, prendo colpi anche dalla lata voce, allora è sempre dentro l'armadio, non mi interessa, lo lascio stare lì, mentre invece l'airbag se non sento manco Antonello Pompugno se si mette in un altro canale, però il baracchino non li voglio piazzare, se io le radio uso queste, quando devo attaccare attacco, adesso sto usando lo IAESO, posso attaccare anche gli altri, no, non li uso baracchini, se abili e luci. Ah, e poi quei pulsanti li avevi scoperti cosa erano, sì? Pulsanti? Di quell'Elbex, mi sembra che c'era qualcosa che andava sopra, sotto, mi bari, una cosa del genere, c'erano i canali, mi sa, la radio, no? È certo che sì, c'ha 120 canali sotto, 120 normali e 120 sotto. Chi ne vuole entrare avanti? Vabbè, c'è stato qualcuno forse che lo stava provando, vedi che adesso non manca più la radio, che la gara. Oh, i 7 ore che ha aperto il 440 era un... non capisco dove entra sta polvere. Tutto il biubero dentro, soprattutto nella parte sotto del VCO, tutto il circuito stampato, c'era questa tutta pulita con la trielina, è ancora aperta, lasciata aperta vicino alla finestra ad asciugare. Dopo la prova a vedere, però è sempre accesa, non ha mancato un colpo, è sempre accesa. Andavo poco fa, ho attaccato quel Superstar qua, quello là, il classico, quello che ci ho messo lo smitter lì, che ho messo lo smitter nuovo, e mi frenescava quando schiacciavo la portante, magari c'è qualcosa da vedere dentro, boh. Ha messo a posto un po' di Gigi, gli ha messo anche la cassa nuova, certo c'è una ricezione allucinante, però quando schiaccio la portante innesca. C'è qualcosa allora, perché quando li ho provato io col Superstar era una bomba, sì, era un po' gracchiava la colonnina, tra le volte voleva nuova, però no, usciva benissimo alla grande, quindi magari c'è qualche cosettina da vedere. A me non mi hai detto niente, quindi sto andando sempre bene con questa radio. Sì, va bene, è tutto facile orecchio. Ehi, va bene. E questo non è neanche l'SM20. L'SM20 l'ho rimesso al posto suo, se no sono qui senza microfono con l'ICOM. Questo me l'ha dato Andrea stamattina in cambio. Ma tu usa questo, nel frattempo ti preparo l'MC60 e sto usando l'MD1B8, quello suo della IESO da tavolo. Buono lo stesso, non è molto amplificato, ma comunque va bene. Ma ti stai facendo proprio connessione direttamente lì, in quella radio? Oppure stai facendo lo spezzone? No, connessione diretta, Massimiliano, non ne voglio spezzone, per quello li ho lasciato. Connessione diretta, intanto sto vedendo quell'affare che hai detto tu e sicuramente mi ottengo una o ottengo l'altra, dai, non ho mai capito. Guarda, forse è l'unica, forse è l'unica. Sì, ma quando senti 60 con lo Iaesio ti spaventi, esce molto, ma molto più forte di questa, molto, ma molto più forte, a livello del K, forse anche più alta, perché questa radio c'è anche l'equalizzazione, capito, quindi ha una modulazione strepitosa. Io cazzo, quando avevo provato, avevo fatto una prova, me l'aveva fatto lo stesso Andrea la connessione, il 920 con l'MC60 mi sono spaventato, infatti usavo sempre quella, voi non ve ne accorgevate, ma io usavo sempre quella, era bella la modulazione, bella, chiara, corposa, fortissima. Sì, avanti il break. 7351, buongiorno, saluti a questo gruppo grigio Sassa del Nicola, mi fate un controllino, cambio. Ciao Nicola, buonasera, guarda, a me mi fa il Radio 4 Santiago 6. Bene, io chiedo scusa a queste offer ieri sera, ho salutato perché mi si è caricata proprio la parte di un tipo con meno di un vaso, quindi purtroppo ho dovuto portare il vino, ho fatto parte di avendo l'alimentatore, tanto il collegamento con la radio, quindi non ho potuto neanche parlare con l'alimentatore da me del servizio. Non ti preoccupare, non c'è problema, avanti Claudio. Ciao Nico, buonasera, ben ascoltato, dai. Santiago un po' più alto, quasi 9, radio 4, però abbastanza comprensibile qua, eh. E non ti preoccupare, abbiamo capito che hai avuto un problema. Oramai capita un po' a tutti, capita a me, a Massimiliano, quando ci chiamano all'improvviso, a Gianni, e quindi si sparisce così, ma poi ci chiede scusa, nel senso diamo diciamo il perché, insomma, ecco, di ponte non sia successo niente. Va bene, vediamo Gianni, avanti. Io mi sono scocciato di provare. Ciao Nicola, ben sentito anche a te, buonasera. Sto più ruda questa parte. Niente Claudio, sta andando male il microfono, a volte esce, a volte no, c'è il PTT sicuramente di nuovo. Anche lui si è inchiodato, adesso devo smontarlo e mettergli lo strato per contatti, anche quello. Tutto il resto funziona bene. Sì, ma sai che sei tutto un sattolo già. Stacca già, però che sei tutto un sattolo. Danni! Oia! Oh, adesso ti sento bene, è saturissimo al massimo. Poi è entrato Lupo Grigio. L'ho salutata Lupo Grigio. Ciao Lupo Grigio, ben sentito, avanza. c'è un fischio, un attimo ti faccio passare. Non ho capito la domanda, Radio Maturi? Noi abbiamo una frequenza diretta sia in VHF che in UHF a livello locale, quindi Sassari e dintorni, ok? E poi abbiamo i ponti sia in VHF che in UHF che collegano il nord al sud della Sardegna. Ho capito, ho capito. Vedi, l'ultima domanda, scusate, ma io ho riacceso il baracchino dopo 40 anni. Questo fisco non mi sta in contesto, non sarebbe le funzioni che si usava una volta. Questo picchio. Picchio, ogni tanto si sente fischiare, si sente fischiare. Io non sento nessun fischio, non lo so che cosa intendi tu, Massimiliano. Boh. Quando entriamo, che facciamo? Che prova. Ecco, quello lì teme forse. Modo di far sentire che c'è qualcuno per vedere se c'è gente per entrare, ecco, ecco. Che cos'è? No, è Gianni Nicola che è abituato a chiamare i canarini. Tu non dire niente, schiaccia la portante come facciamo noi e parla. Avanti Massimiliano, chi è che voleva entrare? Fallo entrare. Avanti, chi è che vuole entrare? Io non c'è stato nessuno. Buh. Già c'era qualcuno che voleva entrare, che sta facendo lo stupido adesso. È qualcuno che ha fischiato infatti. No, a volte è quando schiacciamo la portante, come ha detto Gianni, a parte di scherzi. Fischiamo così per vedere, per fare la prova tecnica di trasmissione, o prove stazionarie, per vedere se c'è il picco di modulazione, allora ci dà un fischietto iniziale, ma poi non ne abbiamo noi di chiamate, oramai ci conosciamo dal PTT, quando schiacciamo la portante dai segnali sappiamo già chi siamo, Nico, capito? Por telefonato, Deo. Se lo faccio qui da ieri non avevi questi problemi. Vabbè. Comunque interessa a te che adesso è migliorata anche la radio, non è più gracchiante, era citofonica, non lo so, strana. Non la sentivo pulita, adesso va bene. Adesso sono contento che sta andando tutto alla grande qua. Adesso cambio radio, anche io, adesso me ne vado un po' con l'altra. Anche questa cosa in mano mi dà più fastidio. Io perché mi sono fatto dare il microfono, è un casino, a me non piace modulare con il microfono e la palma, assolutamente. Avanti Nicola, riprendi. C'ho uno spazio libero Claudio, non lo posso vedere così. È perché ti manca il mostro. Appunto, ho detto. C'è uno spazio libero. Guarda un po' già, questa se va bene. Benissimo. La posso sollevare un pelino perché me l'avevo fatta abbassare. No, va bene. Claudio, se sollevo così va. Ora, 1, 2, 3. Per me va bene Massimiliano, sai, io sono lontano e poi le modulazioni a me piacciono, soprattutto quelle del K. Mi piacciono questi livelli, capito? Perciò per me la puoi lasciare. Se è troppo alta, è troppo alta per i tuoi vicini. Vabbè, io non ne ho vicini, là. Va bene. Gianni, per te così va bene? Ha migliorato un pelino? Va bene. Per me è di lusso. È chiara, forte, bella. Non c'è niente da dire. Ognuno dice, quando c'è un K io, uno diceva di abbassare, l'altro di alzare, alla fine mi sono rotto le balle e l'ho venduto. Oggi vendi la radio, che là se mi di abbassare e di alzare, ma non esiste. Io non tocco niente, Gianni, capito? Posso fare qualche regolazione così, come stavo provando l'altra, giusto per vedere come va in AM, però quando io mi ascolto e dico va bene, per me va bene, e quindi non tocco nulla, me la futti nulla, a me abbassa, tira, abbassa il volume se è troppo forte. Aspetta, voglio vedere se Nicola lo ascolta con questo. Vai Nicola. Sì, sono qui, canale 10, modulazione di ambienza di quello di Comizio, mi ascolti campione. Qua lo ascolto non benissimo, col baracchinetto lo ascolto meglio. E comunque va bene. Gianni, ti ho mandato una foto, se vuoi riempire lo spazio. Tanto il microfono questo non c'ha batteria perché l'ha fatto diretto alla radio. E questa è quella che dove hai mandato la radio tu, me l'ha data, capito? Ma in modulazione di frequenza, ma in queste ore, migliore in FM? Uguale a questo, noi nel FM non andiamo mai perché non è che ci piaccia molto, perlomeno io non ci navigo molto nel FM. Preferiamo modulare sempre l'ampiezza modulata, capo. Sì, infatti, se non ricordo male, nel FM dobbiamo avere un raggio di azione più piccolo, ma una voce più chiara, invece la modulazione di ampiezza modulata. Si riesce a modulare più lontano. A me piace di più, voglio avere lo smitter che si muove, voglio sentire il QRM, questa cosa dell'FM a me non piace molto, però è molto silenziosa, è molto... Già va bene, avanti Massimiliano. Cosa dite a Gianni? Lo spazio è domani. Già arrivata chi se li va. Ho visto che già l'ha guardata la foto là. Lo sai che quel baracchino di Nicola è leggermente spostato di frequenza? Poco. Non lo so, prova Nico, che muovo il WFO, vediamo. C più, canale 10, modulazione di ampiezza, canale 10, modulazione di ampiezza. Non assomiglia un po' a Giuni come parla. Infatti adesso ne mettiamo Giuni. Sì, quanto c'hai tu, meno o più Massimiliano? Più 50. Perché tu non c'hai decimale, più 5 ti segna. Allora lui è 27.075.50. Punto 50, no, a me molto meno, punto 30. Aspetta, un altro passo, vai Nico? Sì, più, canale 10, modulazioni. Gruppo Vizio Campa, riprova, stadio, prova, cambio. Sì, anche a 30. 35, non ascolto bene, là. 27.075.35, già lo ascolto bene. E vabbè, non fa niente, là. Sì. 30.35, ma ci vediamo anche la mia. Cosa hai detto, Rico? Non ho capito. Chiedevo se la banda laterale unica, la SSD, che aumenta fuori i barattini con la modulazione di ampiezza, modulazione di frequenza e SSD, se la resistenza ce l'ha, se voi ce l'avete e se l'avete provata. Noi abbiamo tutto, poi io in particolare. Io ho tutto, dall'A alla Z. Io lavoro anche in digitale. Capito? Ho le radio anche col sistema digitale, perché mi servono naturalmente per la parte amatoriale, però l'SSB noi la usiamo pochissimo, usiamo molto la M qua, sa? Se l'SSB facciamo qualche prova, ma non facciamo molti QSO, Nicola, quindi non ti creare problemi a comprare radio con SSB e balle varie, perché intanto non ti serve a niente, siamo quelle poche persone che parliamo qua e basta. Di Duma Cimiglia. Ma c'è qualche cosa qua? Rispondi tu. No, rispondi al telefono. Fatelo palacciare, non si confermi nulla. Avanti, oh, Nicola, cosa stavi chiedendo? Chiedevo se nei mezzi di libro di Fotodome, Salviero o altri, se ci sono anche sì, qualcuno è rimasto anche lì, anche lì. Qualcuno è rimasto, sì, anche a Porto Torres. Mi pare a Porto Torres ce n'è uno. Ce n'è uno. E poi a Cosalghero ce n'è qualcuno in più, ma non li ho più sentiti modulare, sinceramente. A Alghero ce ne saranno 4 o 5. Bene, bene, bene, benissimo, perché ho preso la mia figlia da Alghero. Sì, sì, sì, c'è qualcuno, ma bisogna vedere se modulano in quel giorno, quello è il problema. Sì, qualcuno entra ogni tanto, ci sono, però sono poco mandroni. Avanti, avanti. Ma la giura mi avete rilasciato. Ma ci mi piace, sì. Sì, sì, ci sono, stavo mandando un vocale, capito Gianni? Ci sono, ci sono. Non ti preoccupare, siamo qua. Ah, ah? Hai visto cosa ti ho scritto? Sì, sì, sì, ho visto, ho visto. Ma a me non me l'hai regalata, lo so. lo so. Ma lo sai cosa c'è? Sono belle come radio, ma sono radio che hanno tutti i componenti usurati adesso e prima o poi ti batti qualche cosa, quello è il problema mio. Preferisco comprarne una nuova e ciccia. Sono belle radio perché sono belle. Vabbè, non è che perché compri una radio nuova i componenti non si... Giustamente, si deteriorano anche quelli, non è che di una radio nuova. Vabbè, questa è tutta allineata, già lo sai, ce l'aveva quella persona là, quindi. Eppure, visto, il più 5, non c'ho più la batteria da 9, prende la corrente dalla radio, ha fatto un capolavoro. Ah, dalla radio la prende la corrente? Sì, sì, gli ha tolto la batteria e prende la corrente dalla radio. Ah, buono. KK, va bene, avanti zio Cla. Cosa? Cosa? Ti ho rilanciato. È arrivata l'aria, dai stamani. Che non la vedevo, la stavo salutando. Ah, ecco, va bene, ok. Vabbè, quando ti piazzerai l'antenna comunque, Nicola, ti metterai una bella radio, dai, che c'è un po' tutto, FM, bande laterali, AM, puoi andare un po' anche da altre parti, dai. Perché non glielo facciamo provare la paletta di FM che arriva più forte? Nico, vuoi provare in FM? Diciamo di portare. Volevo chiedere, sento anche qualcuno modulare nel canale 23, ma è la stessa cosa o sono persone diverse? Persone diverse. Qualcuno è entrato, mi sento. Ma perché cosa c'hai? Anche l'FM tu, Nicola? Perché mi ha portato questo per l'interno l'ho provato una volta sola, non ricordo con più, comunque con una di questa cosa, ma diciamo la maggior parte è in arrivare sicuramente più forte. Proviamo in FM, vai in FM, vediamo un po'. Un attimo che ci siete. Cambio. Attenzione Nicola, Nicola, se ascolti il doppio room, cambi. Eccomi qua, canale 10, modulazione di frequenza, dammi un controllino, cambio. Lo stesso, dai, non è aumentato molto. Marco qua, fa una scala qua. Va bene, allora ritorniamo in AM, K. Va bene, passiamo in AM. Solo a me mi arriva Santiago 2. Eccomi. Arriva più forte qua. Santiago 2 mi arrivava. A me 9 più 50. Vabbè, raga, qua è Santiago 9, quindi è chiaro che in FM poi aumenta. Non so, vabbè dai, non è un problema. Avanti Nicola. Qua ha diminuito Claudio. Qua arrivava più basso. Sempre dalla proporzione, se c'è l'antenna che non va bene in AM non va bene anche in SSB, il discorso è sempre quello. C'era poco fa, è dovuto ci accompagnare il bambino, forse c'è qualcosa, manifestazione, non so, comunque c'era poco fattino. Positivo, e già entrerà dopo, se in caso, magari dopo entra, capito, Nicola. Benissimo, io però tra un po' scendo perché, diciamo, ci ho in casa, ma... Si sta ibernando. K, stanno scendendo le stalattiti dal naso. Certo, c'è un po' di percento, ma almeno dove sto io qui, coperto dai palazzi, non c'è vento e non c'è freddo. Finché non vedo un pinguino camminare, rimango. K, l'interessante è che non ti berni tu. No, guarda, quando lavoravo altro che questo, sperduto fra le montagne. K, lo so, che così. Grazie, mio socio mi ha raccontato che una volta. L'hanno messo tutta la notte in questa campagna al buio nell'Orese con questa persona impiccata su un albero e doveva farle il piantone tutta la notte così da solo, dice, non si sapeva se se l'è impiccato lui, se l'avevano impiccato, sempre col coso, sempre guardandomi attorno tutta la notte al freddo. Sono cose brutte, è al buio, immagina tutta la notte in chibi, non sappiamo né se l'abbiamo impiccato né se se l'è peccato lui, aveva paura che venisse gente da un momento all'altro. Lo so, diciamo che per l'esperienza personale questa è una chiesa tranquilla, molto tranquilla. Vabbè, mia suocera è stata a Roma, che non era stato tranquillo, è stato in Emilia Romagna, è stato in diverse parti prima di trasferirlo qua. Ecco, comunque tanto è vero che io qua sono e qua rimango, non ho mai avuto la minima idea di ritornare in Sicilia. Ti trovi bene qua? Ottimamente. Basta pensare che Sassari, 120.000 abitanti, è mezzo quartiere di Palermo. A Palermo c'è il quartiere Zeni chiamato, il solo quel quartiere ha 250.000 abitanti, io mi immagino un po' tutta. Vabbè, comunque tutto il mondo è paese. Diciamo che come mare, come cosa, anche lì è bello. A me mi ha detto questa amica che c'è il marito che è di Catania, mi ha detto che c'è il mare bello come la Sardegna. Sì, questo sì, no? Un milione di abitanti non ha la metropolitana sotterranea, ha la metropolitana di questo ma la macchina, e quindi dire lavoro a Palermo e vivo a Palermo non vuol dire assolutamente nulla, perché ci sono persone che non riescono a fare, non vuole abitando nella stessa città, perché non ce la fanno, il traffico è incomprensibile. Essendo una grande città dovrebbe averla o la metropolitana, anche perché è molto più grande di Sassari, da quanto mi stai dicendo. Guarda, ma se Cagliari è 500.000 abitanti, se non ricordo male, quindi Cagliari per Omare la conosciamo. Tu pensi a Palermo il doppio, con movimento solo di superficie. Non ha la metropolitana sotterranea come ce l'ha Milano, mi sapeva Milano, da un punto all'altro della città la metropolitana è mezz'ora a Juve. Con la superficie ci vogliono ore. Lo posso immaginare il traffico che ci sarà. Massimiliano, riprendi. Sì, vi stavo ascoltando, nel frattempo mi stavo un po' sistemando qua, dai. Vabbè, comunque guarda, tra le città che io... Sassari è la città in confronto ad altre, è vivibile. Un pochino a Sassari, diciamo, somiglia a Grosseto, anche perché a Grosseto io ci sono stato, ci sono molti fattori tardi, infatti a Lugo, essendo magistrato a Grosseto. E poi c'è poca delinquenza, eccetera. Si sta bene, dai. A parte qualche scalpestrato, ma in genere si sta bene, anche come persone. Sì, non lo metto in dubbio, infatti ripeto, sono rimasto qui, tanto ho venduto anche l'appartamento che avevo giù a Palermo per comprarlo qui. L'unico problema è il viaggio. Per andare a Palermo io devo prendere due aerei dell'Alitalia e mi costa andata e ritorno senza imbarcare la valigia 350 euro solo per me. Imbarcando la valigia sono 420 euro a persona. Poi c'è il treno un po' il costo. Un sacco di soldi sono. E con quei viaggi non costano, ce la fai a viaggiare? Allora, diciamo che ad Alghero parte solo l'Italia, quindi io avrei dovuto fare all'Italia fino a Roma, poi ritirare le domande bagaglio, ho potuto fare un altro check-in per un altro vettore aereo, ma non conveniva. Faccio tutto con Alitalia, unico biglietto, dopo tanto non è che fanno ogni anno, non ci sono andato da 5 anni, beh, penso che è il momento di poterci andare, quindi pazienza, quanto ricordo di rossa manca. Ma è parenti là ancora? Sì, confermo, la mamma e una sorella che abita con mia mamma, sposata, e poi comunque non vedo mia madre da 5 anni. Quindi adesso fa 87 anni ed è il caso che vado, perché la sto vedendo come una candela che si sta consumando giorno per giorno, quindi devo andare. Sì che poi vai. Certo che un mutuo, ogni volta che devi viaggiare un mutuo a pagare. Sì. Mio fratello da Milano a Palermo gli costa 40 euro a andare. 40 euro. Io ho 400 euro. Ma ripeto, l'ultima volta sono andato 5 anni fa, quindi non viaggio ogni giorno. Ogni anno voglio dire scusate, quindi vabbè. E nave invece? Allora, la nave è fatta una volta alla settimana. A girare già, gai. 18 da Cagliari si arriva alle 8 del mattino. È un viaggio allucinato. Io l'ho fatto una volta in inverno e mai più intendo fare. Mai più. Perché proprio io sono il mal di mare, no. Prendo l'aereo e basta, poi mettono le navi più vecchie per quella tratta. Ehi, a riprendi il club. No, Massimiliano, vai, facciamo il programma Massimiliano, riprendi. Sì, non è problema, vai, stiamo ascoltando. No, non c'è una volta alla settimana alla nave comunque, c'è anche qualcosina in più, però da Cagliari. Ma l'aereo comunque è meglio, là, non c'è problema. Vai, zio Cla. Sì, ma non fa Cagliari-Palermo quella. Quella mi sembra che faccia Cagliari... Dov'è l'altro porto? Perché l'ho fatto io una volta andare da mia sorella. Bravo, Cagliari-Trapani fa, esatto. Poi da Trapani a Gela tutto in macchina. Una cosa allucinante. Massimiliano, tutto ponti. Lo so, mi sembra che siano intorno anche ai 250 km, una cosa del genere. Forse anche 300 buoni, vero Nico? Credo di sì, anche se ci sono stati una sola volta, anche perché ho un lontano parente che lavorava all'anno. Tutti questi ponti altissimi, per carità di Dio, vabbè, meglio qua, meglio Palermo, mamma mia Gianni mio, io ho visto Palermo, una cosa allucinante, grande, grandissima, traffico, casino, guarda, per carità, riprendi. Comunque scusate, c'è da dire una cosa, che la autostrada in Sicilia non si paga, sono grave, almeno questo. Ed è un buono, infatti, riprendi già. Avete le autostrade là, perché qua non ce ne sono autostrade, ci sono le superstrade e basta. Sì, si conferma, abbiamo le autostrade e sono grave, non si paga, non mi dire perché, non mi spiegare perché, non lo so, comunque non si paga, perché sono tutte abusive. No, non penso. Magari appartengono a qualche ente che non fa pagare. All'ANAS appartengono le strade, ma lì non ce n'è ANAS che tenga. Lì si alza Pippo Franco e dice, oh, qua non si deve pagare, la incasso io diversamente, vero Nico? Non lo so, però comunque ricordiamo che la Sicilia, come sapete, è una regione a statuto speciale, quindi probabilmente... Riprendo subito, devo scendere giù un attimo. Oh, non so voi, ma io ho delle scariche elettrostatiche allucinanti stasera. Sta arrivando qualche temporale. Cosa ne so? Ma scariche elettrostatiche allucinanti. Anche tu già? No, negativo. Qua non c'è né correva né scariche, niente. Io ho delle scariche. Ma io neanche. Io comunque adesso chiedo scusa, scendo perché ho ospiti a casa e altrimenti... devo dare spiegazioni, poi pensano che altro che parlare, magari faccio appuntamento anche io. Fai gli onori di casa, ciao Nicola, dai, ben sentito, buona serata. Grazie, ci sentiamo domani se possibile. Saluti a tutti. Ciao Nicola, quando... ritieni opportuno fare i lavori, ti ripeto, ribadisco, io sono a tua completa disposizione, non ci sono problemi, è un piacere averti ascoltato, un buon fine serata, buon fine Befana e a domani se coincide, ciao, buonasera. Buonasera a tutti, spengo la radio. Io già, con queste radio, se accendo il baracchino non sento niente, no? Però con queste radio, con gli HF, con le radio digitali si sente un bel, c'è un po' di scarica elettrostatica, c'è qualcosa nell'aria, c'è qualcosa nell'aria, sono luminarie, non lo so, però c'è, ho delle scarichette, va bene, o sono loro col phone, sta asciugando i capelli l'aria. Cioè sta facendo capire la mamma, forse è quello che mi sta disturbando, va bene. E io magari anche, sì, ci sono tanti cavi di alta tensione, ho visto dell'Enel eccetera eccetera, magari anche il passaggio dell'elettricità, e non ti credere che sia Masito. Stavo sgridando a Filippo, lo sto guardando da lontano, si sta facendo lo sferone e cazzo in sangue, è una cosa allucinante. A chi? Filippo. Ha tagliato, sì. No, se lo morsica, lo sperone si morsica. Vedi, caderò. Mettimi qualche cosa. Cosa le metto che se riesce a togliere? Se le metto quelle fasce elastiche da una parte e dall'altra, se le morsica, se le toglie, è una cosa allucinante, guarda. E metterà gli ha detto che è lo stress. Più stressato di me, io sono più stressato io, cazzo buono gai. E ogni tanto fatelo giocare io a te, ogni tanto prendo la pallina, la lancio in sala, la prende, me la porta, poi facciamo questo gioco. Lui me la mette in terra e devo fare un bel fretta a prenderla se non la chiappa lui, capito? È un bel buibu. Si fa avvicinare e poi zane la prendi lui. Allora io faccio finta di andarmene, poi dico portare la frego là sotto. E allora comincia a saltare, che la vuole, e allora lo faccio giocare con la pallina. No, voglio giocare, non ci gioca Filippo con la pallina, c'è uno sacchiotto, se lo prende, se lo porta da una cuccia all'altra, ho già lavato 6 volte, tutti i giuringhi, tutti i labbrazza, poi, e il mio è molto più dormiglione, il tuo, già, il mio sta sempre con il catto, se vedi con il catto, sto guardando da qua. C'è il plaid, c'è il muso in mezzo al plaid, vicino al termosifone sotto la TV e sta aspettando che arrivi l'orario. Lui alle 7 fa un po', ma tra 10 minuti si riempisce e viene in obbligo a dire io devo uscire, hai capito? È orario, così fa la mattina. Alle 9 lui è già pronto, nella porta che deve andare. Prima, se tu c'hai un problema che devi uscire presto, lui presto non si alza, non c'è niente da fare. No, Tyson, quando esco io esce lui, non c'è problema. C'è problema. Ed è difficile che mi rompa le scatole per portarlo giù. Se lo fai perché magari ha diarrea, roba del genere. L'altro giorno stavamo gugnando, ho detto va, io sono andato in fretta, sono sceso giù, come è arrivato, Bruno ha diarrea. Sì, quello lo fa anche Filippo, sta andando e tornando e... capito, ti avvisa, quello sì, quando se la sta facendo addosso sì. No, beh, se io mi alzo, lui si alza, però se io gli dico non devo uscire, capito, non devo uscire, vai e coricarti, vengo dopo, perché la mattina alle 8 esco, vado a prendere le sigarette, do un'occhiata al giornale, mi prendo il caffè e poi ritorno a portare a lui, capito, e poi vado a lavoro, non è che ho orari. Tranne il lunedì e il giovedì, che ho degli orari ben precisi. Però termino sempre presto e lui mi aspetta e lo porto. No, alle 9 e 9 e mezza, capito? No, non è di quelli che disturba. È come tecnovisia. Claudio, io ho sempre seguito gli orari, alle 8 di mattina, poi lo portavo all'una, e poi lo portavo alle 8 di sera. Adesso che non sto bene, a volte mi riposo, e magari alle 8 di mattina non lo porto, lo porto più tardi, poi lo porto verso le 4 e poi lo porto alle 8 di sera. Però lui non ha fatto una piega, niente, sul cambiamento di orario. Non... faccio, c'è un dolore troppo forte e mi devo riposare un po', se no lui dopo mi tira. Cioè, mi ha fatto gaggibù, mi ha tirato sino alla fine del guinzaglio, non ce l'ho fatta a reggere, mi ha fatto uno strattone e budubù si è occupato in terra. Attenzione, Becco! Avanti! Mi è preoccupato, niente a Fabrizio, va alla radio, vai Fabrizio! Ciao Claudio, ciao a tutti! Dammi un controllino, come sta andando? Bene, bene, bene! Ha contato Mirai! Adesso ho finito, da dopo pranzo adesso, c'era un casino, cioè niente di particolare, però a trovarlo è stato un problema, a parte che c'era anche l'affare del modulatore, vabbè, un transistor bruciato, c'erano cagatine che... Non era troppo, il problema è che ci perdi troppo tempo, capito? Perché non le voglio più fare. Vabbè, tu non glielo dire mai, non glielo dire mai a Gianni che non hai trovato ancora il problema, che era già preoccupato, ma gli ho detto, dalle tempo, vedrai che già lo trovo il problema. Ultimamente bene qua, benissimo la grande Fabri. No, che quando mi hai chiamato, ovviamente non ero lì, sì, avevo controllato tutta la catena ed era tutto a posto, e quindi bisogna cercarci intorno. Vabbè, non sono stato a modificare, stavo per mettere in mano e modificare il modulatore, ma va bene così, dai. Oh, Fabri, in definitiva cosa era? In definitiva, la cosa principale era un transistor bruciato. Non so come spiegare, se prendi il modulo a blocchi vedi come funziona questa radio, c'è una parte di emissione dove c'è il mixer, lui si fa lì, poi c'è la parte che se non va in AM, perché andava in FM andava, le altre parti, potevano essere solamente uno dei tre transistor, capito? Non è che c'era molto da girarci intorno, era una riparazione così, però ce n'era uno che era messo in corto, c'era una resistenza, un coso, e quindi si fa perdere tempo, perché l'ho smontato, l'ho controllato, era a posto, l'ho rimontato, l'ho ricontrollato, poi alla fine c'erano delle tensioni sballate e vai e cerca tutto intorno fino a trovare il motivo di quella tensione, capisci? Il problema è quello, troppo tempo ci vuole, soprattutto quando non le fai ogni giorno, questa è l'ultima quando l'ho fatta. Attenzione, occhi di gatto, cambio! Avanti! Così ti piace, ciao Fabrizio! Ebbene Tino, e allora come va? Bene, rientrato, mi ha accompagnato a Gabriele fuori da Lauchan che doveva incontrarsi con degli amici e di nuovo qua in radio, ero poc'anzi qua, è cambiato qualcosa? No, e cosa deve essere cambiato? Dico, si è aggiunto qualche altro? Non lo so, io non ero in radio, sono entrato per provare una radio. Come mi senti? Già lo sai che ho il servizio abbassato, con l'antenna bassa, ma dovrebbe essere uguale. Bene, ti sto ascoltando col tutto, però. Aspetta, ma io l'eco ciò, sì. Sì, ce l'hai. L'eco col bimbi, c'è il bimbi, sì. Via, tutto a posto Fabri, ciao T. Miau di nuovo. Miau. Per il resto era a posto, io non ho toccato altro, solo ho controllato questa cosa, il resto era già a posto, sì. Sì. Io ando benissimo, come sta facendo, come esce Gianni, va benissimo. Ma glielo ho detto già lo trova, è che ci vuole un po' di pazienza e lui siccome pazienza già ne ha tanta, già lo trova il danno. Infatti glielo ho accennato, pace che sia qualche transito, qualche diodo, qualcosa che non va, che è bruciata e quindi non le dà l'emissione al modulatore. Ma vogliono trovare quelle cose, no? Il buccia di giocano. Quando apre una radio, ui, vai già. Ognuno su. Vabbè Fabri, quando poi quello ritorni, dai. Ascolta, io adesso mi devo cambiare che devo andare a prendere mia moglie. Se ne voglio uscire, infatti, io dovrei... questo è il tempo di cambiarmi, prima delle 8 comunque sono al corso, la parte alta, dove c'è Porsche, per capirci. Se ne voglia tu passi prima delle 8:05, 8:15, però diciamo che se passi alle 8:05 mi trovi sicuro, e così te la prendi e te la porti via, non so che spazio, non è o meno. Ma si può scendere lì adesso, non è, non c'è il coso, come si chiama, il divieto, si può andare? Sì che si può andare, non c'è più nessun problema, lì è, sì, ormai è, scendi da lì, poi una volta che arrivi di fronte a Poggio, vai dritto, giri in Piazza Tola, rigiri e poi scendi al bordo, oppure giri per lì, al Carmine, giri, non c'è più, non, è, non esiste più a stanza di, il, come lo chiamano, vabbè, il divieto di transito, dai, la zona traffico limitata. ZTL. Vai, vai Gianni, tranquillo, che è tutto aperto, non c'è più ZTL. Vai, pigli a dire, vai. Anche culo c'hai, mica Fabrizio sta uscendo, così ce l'hai già subito a casa. E stavano già venendo gli incubi, mi ha detto Fabri, che c'aveva lo spazio vuoto. Lo so, così è. Poi non lo so, per il resto, vabbè, io non ho toccato niente, quindi per il resto se andava bene, andava bene, io quindi va bene, sta uscendo. Poi il resto non ho toccato nemmeno le manopole, niente, mica, te lo controllerai, io, però tanto il difetto era solo quello, giusto? Sì. Fabri, a che ora esci? Sì, io stacco, ricollego l'antenna al 4:40, 2-3 minuti per riordinare qua e sto uscendo, ti faccio uno spillo quando sto uscendo di casa, dai, mi devo mettere la camicia, le scarpe, ti faccio uno spillo quando sto uscendo di casa. Ehi, in largo Cavallotti, quindi ci vediamo. Così si chiama, di fronte a Poggio, non so se si chiama largo Cavallotti. Cappaga, va bene. Dai, mi preparo allora e metto le scarpe e vengo a ritirarmi la mia macchinetta. Oh Fabri, dimmi. Ma domani sei libero? Io sono a Ripunti, vieni con la casa. Domani faccio due mattini, non so se martedì non gioco, potrebbe essere qui uscendo dal lavoro, intorno alle 4 magari passo, 4:15. Però alle esco, devo lavorare domani. Dopo probabilmente mi toccano, sto lavorando di continuo praticamente, sto sostenendo un collega che sta male e quindi sto lavorando il mio e il suo. Ah vabbè, no, ora se ti vedi il passaggio sono lì dentro, io devo fare un intervento. Vabbè, allora ci sentiamo al telefono, dai. Va bene. Ok, dai, io sto chiudendo così mi preparo. Vai, ciao a tutti, ciao Claudio, ciao. Ciao Dodo, non so chi c'era in ruota, scusando, ho interrotto, se a qualcuno non l'ho salutato, io non ho fatto giusto il break per provarlo. Va bene, ciao a tutti. Ehi, dai, saluto tutti anche io, dai, vado a prepararmi, a mettermi le scarpe, tanto sono pronto. Ciao Fabri, piacere averti riascoltato, fatti sentire, siamo sempre qua. È buon inizio l'anno che non ti ho sentito. Avanti ti. Aspetta un attimino, che così sto chiudendo. Guarda che c'è un 4:40 in ottimissime condizioni, se serve a qualcuno, è quello di Coso che aveva avuto problemi finali, gli avevo cambiato i finali. La radio è quella di Gio Maria, la radio è la conoscente, aveva solo bruciato i finali. Quindi tutto a posto e ce l'ho qua, la scopola che sto usando io da un paio di mesi. Ehi a Fabri, e io c'ho questa. Fino a quando funziona, perché è una cosa allucinante, non ti trattenga, ma stanno durando molto molto molto poco. Tu immaginati che questa è quella che io ho comprato da Roberto, che prima di darmela l'hai fatta tu. Stanno durando sempre meno questi componenti, non c'è niente da fare. Ho già visto un campanello d'allarme l'altro giorno, che era un paio di giorni spenta, l'ho accesa, puntini, dopo qualche minuto si è ripresa. E quello è già un campanello d'allarme, cioè non si viene più che c'è radio, Fabri. Io avevo fatto due a cosa, ne avevo fatto. Però se quella che gli avevo fatto, il bucio sono a posto, quindi sarebbero solo da ritirare. E se dà problemi è il bucio 5 dell'altra scheda, ma è solamente un bucio da rifare, che quello non gliel'avevo rifatto. Adesso se ti darà problemi c'è quello da rifare, però la parte più grossa è stata rifatta. Se quella lì, perché ne aveva due, se quella lì è a posto come bucio. Non è perfetta Fabri, ed è quella lì. È quella lì che io ho preso da Roberto, che prima di darmela l'avevo data a te, l'avevo già detto. Perché aveva punte e puntini e non si riprendeva, quindi l'avevi già rivista tu. Adesso ogni tanto mi fa parlare che sia da ritirare Fabri, non lo so. Se dovesse rifarlo magari la do a Roberto e gliela dai una tarattura, non lo so, perché non è da rifare, sicuramente da ritirare. Da rifare le misurazioni, perché è impossibile, cioè, 2 anni fa neanche è stata rifatta questa. Va bene, dai, non ti trattengo, poi al limite ci aggiorniamo, dai. Ciao, buona serata, buon tutto e ci riascoltiamo, ok? Va bene, no, ma te l'ho detto, lì quella parte lì a posto potrebbe essere che ce n'è da ricostruire un altro, perché sono 2 schede, una scheda quella dove sono i 4 più importanti sono stati fatti, poi c'è anche il VCU5 che non è stato fatto, infatti questo non è stato fatto perché sta regolando, sta dando problemi, ma prima o poi potrebbe dare problemi. Anche quelli di raccogliere, solo che anche lì bisogna smontare, ci voleva troppo tempo. Va bene, dai, sto chiedendo se non ce la faccio. Ciao Fabri, vai ti. Eia. Ciao Fabri, ci aggiorniamo, siamo lì, se vuoi passare, anzi sono, non so chi c'è rimasto. Io, buonasera. Che boh, è entrato da poco ieri, in 4 veniva vendato, c'era anche Massimiliano. Ci sono. Stavo aspettando che il rilancio, ma non c'è problema, ero sempre qua in attesa. Va bene, saluto Fabrizio che è appena andato via, va? Ok. Poi c'è stato un altro che è entrato sotto, non so chi sia, avanti. Ehi, sono io, buonasera. Ciao, chi sei, Eugenio? Ehi, sono io, ma chi vuole cercare la distribuzione e poi... Scusa, Eugenio. Che sta entrando al distributore e poi riprende. Ciao, Eugenio. Ciao, Eugenio, riprendi Tino. Quindi vedi, Massimiliano, magari non c'è bisogno neanche di cambiarli, però vedi, questa l'aveva fatta lui quando l'avevo comprata da Roberto. Le tarature, le cose, un casino, sti 440, cazzo allucinante. Vabbè, adesso l'ho tutta pulita, sta funzionando bene, speriamo che duri, se non dura se sarà da fare nuovamente le tensioni su quella parte lì. Vabbè, dai. Sei rientrato, sì. Sì, vabbè. Sto vedendo la mia, io chi la compra che me ne prendo un'altra. Ah, ne vuoi di 440? Tanto di Nigeveni. Se non sto cambiando, non voglio cambiare. Cioè, tutti in fecare di asse. Tu immaginati che io sto facendo il cambio. Tu ti faceva il cambio che devo fare. No, Giuseppe Alghero, no, non è possibile. Se Fabrizio dovesse lasciare il lavoro che fai, ha preso un laboratorio, ne ha di ferrivecchia con te, no? Che, oh, yeah. Ma non vale più la pena, no? Massimiliano, credimi. Già lo so che non vale la pena. Allora, io sono stato qui, lui non avrei cambiato il lavoro, quindi questo è un hobby per lui. Era una battuta, Tino, mica si lascia il lavoro che fa per la radio. E fa bene. Ma lui è molto appassionato, le piace questa roba qua, quindi fa bene che lo fa, dai. Qui si tiene in allenamento anche. Tanto per quello che c'è qua in zona di Sassari, per i vici a Venezombe. E allora, oh yeah. E tu domani rientri? Ehi, Attino, domani di nuovo capo di combattimento, era ora, perché sono già 20 giorni di ferie. La verità sì che non più vuole stare a casa. Lo so, tu pensa che sono andato a lavorare anche in periodo di figli, proprio per non rompermi le scatole qua a casa, per carità. Fare altro però, niente di che. Una giornatina. Vabbè, ma già sempre bello cambiare, Tino, anche io se trovavo qualche giornatina, anche se era il periodo di fretta andavo lo stesso, non è che mi interessa. Anche perché adesso iniziamo all'aeroporto di Olbia. Febbraio, il primo febbraio ci abbiamo 41 giorni non stop, cioè H24, capito? Bene. Vabbè, ma lo stanno assumendo? Non te lo so dire, ok. Ti faccio sapere qualcosa domani. Vedi un po', se ne vale la pena, se no lo sai. Per cambiare, ma dove sono? Ma tu c'hai anche la patente, CQC? No. C'hai anche... Va bene, dai, fammi fare domani... Adesso domani fammi rientrare e vedere un po' come la situisci. Chiedo un po'. No, aspetta, quello del camion non ce l'ho. Ho le patenti per il movimento. Vabbè, quello ce l'ho anche io. No, pensavo che avessi anche la patente del camion col CQC. No, no, non ho preferito, vabbè, te ne parlerò, non ho preferito prenderla per un motivo comunque. Ce l'ho io la CQC. Tu state nella Versilva, che tu sei un pesce, tu sei zona di mare, noi siamo montagnini. Andabex, Andabex, è mio G. Allora, ufficio, buonasera, dopo. Com'è il mare? Bagnato, e auguri a tutti. Auguri, auguri. Massimiliano, che microfono ti stressa? Un CTE in particolare? Guarda, mi stresserebbero tutti quanti perché ne ho 4 o 5, ma CTE non li do. No, è perché questo ogni tanto è un difetto, ne ho voglia di stare aprirlo a fare, perché magari anche il cavo è vecchio, capito? No, CTE cioè, è un Midland che me lo lascio per qua. Capito, poi altri no. Boh, devo guardare un po' perché ho una scatola piena di roba e devo vedere un po' cosa c'è, cosa non c'è. Il pilota di Hiroshima. Vabbè, dai, fammi sapere. Va bene, va bene. Mi stai ascoltando bene oggi? Vabbè, adesso sono ripetuto, devo commutare per sentirti bene. Devi andare con quella là per vedere un po', no? KK, va bene. C'ho un Mobicom. Che in poche parole trasmette sia in FM che in AM, mi pare, e non riceve. Sì, va bene, va bene. E ho letto. Non so se spenderli, 4-5 euro per quell'integrato, adesso vediamo un po'. Ma guarda, io, vedi che sono volato con questo, altro c'ho un'altra, sotto un'altra tre antenne, quindi non mi interessa. Scusate che la bassa. No, oggi Claudio è al telefono. Sì, non lo so se ti ha salutato e non te lo so dire perché mentre stava parlando gli ha squillato il telefono, quindi non so se ti ha salutato. Sì, domani dalle figlie rientro, per la mattina, sveglia 4:30. Sono un po' più vicino, dai, sono ad Ardal adesso, zona Meserio, quella zona lì. Sì, sì, dai, una ventina di minuti, dai, siamo lì. E non c'è problema. E vabbè. E tu, rientrato dal lavoro? Raga, io devo andare a portare il cane, quindi mi devo allontanare dalla radio. Massimiliano, quando adesso lasciami cambiare, fra una decina di minuti mi chiami al telefono, mi chiami però, e ti devo dire una cosa, ok? Dai, per il momento mi allontano. Ascolta, facciamo così, siccome io anche io mi devo allontanare adesso, devo salire a portare la bombola della mia suocera, quando arrivo lì ti chiamo, bene va. Perfetto, chiamami che ti devo dire una cosa, ok? No, così, ti devo chiedere una cosa al telefono, dai, a livello personale. Ciao T, un abbraccio, saluti a tutti, io vado perché poi stacco, dai, sono già le 8:20 e sono già in ritardo, gioco il pigiama, me devo vestire. Ciao a tutti, a domani ragazzi. Ciao Giuseppe, sì, ti sento Giuseppe, non c'è problema, ciao. KK, devo uscire a portare il cane, dai. Adesso poi chiamo Massimiliano, va bene, ok? Ciao Tino. Tino non c'era, in una bassa, e poi c'era anche Eugenio, anche io, dai, io stacco lo stesso, vi saluto, ciao Eugenio, sicuramente stai venendo verso le mie zone perché dal segnale me ne sono accorto, e saluto tutti quelli del canale 10, ho sentito anche Giuseppe di Alghero, ciao Giuseppe. Giuseppe, ti ha salutato Massimiliano, ti chiamo adesso un minuto, vai. Va bene. Ciao Massimiliano, ciao. Ciao Tino. Ciao, ti ascolto, pio pio, pio pio. Vediamo se mi ascolti meglio così, hola. Attenzione Eugenio. Ah, cappa. Va bene, dai. Allora stacchiamo. Ciao Eugenio, ciao, buona serata. Claudio, ma che tu hai chiuso?